Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Giovanni Bonitti. Il gioco degli scacchi ha dentro di sé i presupposti di un rapporto intimo e complicato. Ogni mossa non è fine a se stessa, ma è pensata in armonia con le mosse successive. La strategia è costruita in modo da mettere in crisi quello che riteniamo essere il pensiero del nostro avversario. E le immaginazioni di due uomini si fronteggiano finché una non riesce a sottomettere l'altra. E quando si tratta dell'immaginazione di due geni, la loro partita porta dentro di sé il significato di un'opera d'arte. Il fascino quasi romanzesco di queste partite è aumentato dal fatto che non è la sinergia o l'intimità di due teste, ma è il loro estenuante combattimento a creare l'opera. Il fascino è dovuto anche al fatto che il genio dello scacchista si avvicina al pensiero puro, che mira quasi alla preveggenza, e la sua dedizione al gioco è necessariamente totalizzante. Lo scrittore Paolo Maurensig narra degli scacchisti come di sacerdoti inevitabilmente votati alla propria religione. Gli scacchi richiedono una non comune energia e la freschezza mentale di un fanciullo. E se a volte il giocatore viene raffigurato nelle sembianze di un vegliardo dalla fronte corrucciata, questa è solo la rappresentazione emblematica di un'attività in cui si bruciano i giorni, gli anni, l'esistenza stessa, in una sola inestinguibile fiamma. In cambio, paradossalmente, il giocatore di scacchi assapora l'arrestarsi del tempo in un'ansia di eterno presente. Gli uomini che hanno fatto degli scacchi una professione necessariamente convivono con essi per buona parte delle loro giornate. Vivono in un piccolo mondo eterno fatto di regole e di pensieri all'interno del mondo reale. Sulla scacchiera trasferiscono anche il proprio carattere e il proprio modo di sentire la vita. Attaccare, difendersi, temporeggiare, comprendere cosa vuole fare l'avversario sono tutti ragionamenti che risentono dell'indole di chi deve prendere le proprie decisioni mossa dopo mossa. Il russo Spassky e l'americano Fischer erano persone completamente diverse e fu anche il fascino di questa contrapposizione a renderli amici e a gettare le basi per quello che da tutti fu definito il match del secolo. È il 1960 e Destini Incrociati è volato a Mar della Plata, in Argentina. È in corso un importante torneo internazionale a cui partecipano sia Boris Spassky, allora 23enne, che Bobby Fischer, che all'epoca ha appena compiuto 17 anni. I due giovani riconoscono immediatamente, l'uno nell'altro, il genio. Il gioco di Boris è in costante evoluzione e sta già creando un suo stile personale, che con il tempo verrà definito stile universale. Si tratta di una visione degli scacchi flessibile e che mira all'adattamento rispetto all'avversario. Il gioco di Fischer, invece, è di puro attacco. Il loro modo di approcciare la scacchiera rispecchia anche i loro caratteri. Spassky è un ragazzo colto, umile, educato. È portato al confronto con gli altri. Non è ossessionato dagli scacchi e non fa di una sconfitta o di una vittoria una ragione di vita o di morte. Questa sua leggerezza nel porsi riguardo alla vita non è molto apprezzata dalla delegazione sovietica, che lo accompagna come un'ombra in tutti i tornei. Per i russi in questi anni tutto assume un valore politico e quindi di vitale importanza. Risulta evidente anche dalle parole di Alexander Rosal, all'epoca direttore della rivista nazionale di scacchi. Lenin era un vero appassionato di scacchi. Si dice che fu lui a coniare la frase «Gli scacchi sono la ginnastica della mente». Gli scacchi per le masse. Gli scacchi sono le armi della cultura proletaria. Ora con gli scacchi possiamo implementare una volta per tutte il livello culturale del popolo. Spassky ha degli interessi che vanno oltre la scacchiera. Ama la musica, leggere. E da ragazzino era un promettente centometrista. È una persona con una propria precisa identità. E fin da giovane gli sta stretto l'incasellamento a cui è sottoposto dal sistema sovietico. Dave Edmonds, scrittore britannico che ebbe occasione di conoscerlo e frequentarlo, lo ricorda così. Boris era un individuo molto complesso, con visioni politiche molto più sofisticate di molti suoi connazionali. E se era visto ad ovest come il tipico rappresentante del sistema sovietico, in realtà lui non si vedeva come uno che veste i panni rossi e stretti del comunismo. Nel quei giorni, a Mar della Plata, Spassky e Fischer gettano i semi di un'intensa e strana amicizia che durerà per 40 anni. Boris vede nel giovane americano alcuni tratti della propria inquietudine e ci si affeziona. Ma mentre per Spassky questa inquietudine nasce dalle limitazioni della propria libertà personale che vengono dall'esterno, per Bobby il sentimento d'oppressione nasce e vive tutto dentro la sua testa. Fischer è ossessionato dagli scacchi. Per lui sono un rifugio da un mondo che fin dalla più tenera infanzia stenta a capire e con cui fatica a relazionarsi. Negli anni, con il degenerare dei suoi comportamenti, si ritenne che Bobby fosse afflitto dalla sindrome di Asperger, una sorta di autismo che comporta la persistente compromissione delle interazioni sociali, l'uso di comportamenti ripetitivi e stereotipati e l'ossessivo impegno in attività e interessi molto ristretti. È come se la vita di Fischer, un po' alla volta, venisse risucchiata da un buco nero che ha le sembianze di una scacchiera. Due dei suoi biografi, Frank Brady e Dave Edmonds, ci esemplificano alcuni tratti della sua personalità. È una persona sola e gli scacchi sono i suoi unici compagni di vita. Bobby non aveva molti amici. La sua vita cominciò a diventare gli scacchi e gli scacchi cominciarono a diventare la sua vita. Ed è lo stesso Fischer, in un'intervista, a rispondere così, con un sorriso imbarazzato, alle domande che lo riguardano. Come influiscono gli scacchi sulla tua vita sociale? Ti capita di uscire? No, non molto. Hai una ragazza? No. Spassky ha in comune con Fischer le difficoltà psicologiche dovute a un'infanzia difficile e segnata in modi diversi dalla guerra. Boris, da bambino, è costretto a fuggire da una Leningrado invasa dai nazisti e nello stesso anno suo padre abbandona la famiglia. Ragazzino, si rimbocca le sue piccole maniche e prende in mano il timone di casa, dividendo il suo tempo tra lo studio, il lavoro e gli scacchi. Anche Fischer non cresce con il padre, che durante la guerra rimane in Germania, mentre sua madre ebrea emigra in America. Bobby nasce sul suolo statunitense e si rifiuterà per tutta la vita di vedere l'uomo che l'ha messo al mondo. Quando qualcuno che non conosce la sua situazione gli chiede del padre, Bobby non riesce a far altro che chiudersi dentro l'imbarazzo che sembra quello di un bambino. Cosa mi dici di tuo padre? No, io non lo vedo. E i tuoi genitori vivono insieme? No. Bobby Fischer ha 14 anni, era già campione degli Stati Uniti. I giornali celebravano il suo genio. Questo giovane adolescente, che non riusciva ad avere rapporti normali quasi con nessuno, viene catapultato sul palcoscenico mediatico. Allora dici quanti anni hai e da dove vieni? Ho 15 anni e vengo da Brooklyn. Questo giovane uomo si chiama Bobby Fischer. E sentite questa. Ora è il campione di scacchi degli Stati Uniti d'America. In realtà Bobby non ha difficoltà ad accettare il suo ruolo da star. Lo trova una normale conseguenza delle sue straordinarie capacità. Le gratificazioni così scintillanti e superficiali, che non comportano un rapporto intimo con chi lo esalta, sono esattamente il tipo di legame che cerca ed è in grado di sostenere con il mondo. Il rapporto con la madre, invece, si fa sempre più complicato. Lei, quando ancora è un bambino, cerca di fargli condurre una vita normale, una vita che non sia stare 18 ore al giorno davanti a una scacchiera. È una donna intelligente, premurosa, ma il figlio, crescendo, vede in lei soltanto una persona che gli fornisce un letto su cui dormire e del cibo da ingurgitare. Quando il giovanissimo Bobby comincia a diventare famoso, la madre, ormai abituatasi a un rapporto freddo e utilitaristico, cerca di trarre i suoi benefici e di cogliere le opportunità che può dare un figlio geniale ed anaffettivo. Prova a improvvisarsi come manager del ragazzo, che però senza patemi d'animo l'allontana appena raggiunge la maggiore età. Bobby si trincera in una caverna di solitudine. Di giorno dorme e la notte studia gli scacchi, ascoltando alla radio il reverendo Armstrong, un fondamentalista cristiano che diventa la voce senza faccia, l'unica voce che Bobby ascolta. I rari momenti in cui Fischer ha rapporti con altri esseri umani sono i tornei nazionali e internazionali di scacchi, che continua a vincere, massacrando ogni avversario che gli si para di fronte. Intanto, dall'altra parte del mondo, anche Spassky continua a progredire. Perfeziona il suo stile universale e comincia a battere uno dopo l'altro tutti i giocatori sovietici che rappresentano l'elite mondiale degli scacchi. Sconfigge il leggendario tattico Mikhail Tal, portando il gioco su posizioni tranquille ed evitando di lasciare che l'avversario esprima i suoi punti di forza. Pur essendo costretto a una concentrazione continua e mostruosa, Spassky riesce a mantenere sempre la calma sulla scacchiera come nella vita. La sua filosofia riguardo al gioco è di un disarmante disincanto. Fra 3 o 4 anni spero di essere più forte di ora. Poi declinerò e un altro forte giocatore prenderà il mio posto. Gli scacchi costringono a vivere una vita anormale e per restare tra i primi bisogna imporre a se stessi una notevole disciplina, che è una qualità innata. Io non ne ho molta, anzi direi che in generale sono assai poco pratico e completamente disorganizzato. Nel 1969 Spassky diventa campione del mondo. Batte il connazionale Petrosian, adottando in un match epico lo stile negativo dell'altro. Ancora una volta la flessibilità mentale di Spassky gli ha permesso di penetrare nel cervello dell'avversario anticipando le sue mosse. Boris in patria diventa un eroe, ma la sua indole lo porta a sentirsi a disagio nell'interpretare un ruolo che non sente come suo. Tu pensi che diventare campione del mondo dovrebbe renderti felice, che sarebbe veramente il massimo. Ma per me le cose andarono in maniera completamente diversa. Gli anni da campione del mondo furono i più infelici della mia vita, perché dovetti affrontare il peso della responsabilità. Inoltre vivevo in un paese comunista, ma io non ero comunista. Fu un grande peso per me. In Russia diciamo che la shapka monomaka pesa terribilmente. La shapka monomaka è la corona dello zar. È una sensazione che ho vissuto abbastanza male. Invece quanto darebbe Fischer per la sciapca monomaca? La sua, nel corso degli ultimi anni, sta diventando un'ossessione, che quasi comincia a fare ombra a quella che nutre per il gioco puro degli scacchi. È come se Bobby stesse cercando un appiglio, qualcosa di reale, sotto gli occhi di tutti, come la corona mondiale, per sentire il riconoscimento di un mondo esterno di cui sta perdendo sempre più il controllo. Il problema di Bobby, però, è che per arrivare al titolo, prima deve sconfiggere una serie di formidabili giocatori. E soprattutto se stesso. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. Negli anni 60 rifiuta spesso di giocare fuori dagli Stati Uniti e per lunghi periodi scompare anche dalle competizioni nazionali. Polemizza con i giocatori russi, sostenendo che si presentano in massa ai tornei e si accordano tra loro per vincere. L'unico che salva fra questi è Spassky, che seppure abbia conosciuto solo per qualche giorno al torneo di Mar della Plata, viene considerato dall'americano una delle poche persone di cui ci si può fidare. Nel 1964 rinuncia a partecipare alle Olimpiadi di Tel Aviv perché i compensi sono troppo bassi. Nelle sempre meno numerose interviste che concede, mostra tutta la sua credine verso quasi tutto e tutti. Basta sentire come risponde Bobby quando gli viene chiesto un commento alle affermazioni di Lisa Lane, campionessa di scacchi che lo considera il più forte giocatore vivente. L'affermazione è corretta, ma Lisa Lane non può valutarlo. Le donne sono deboli, tutte le donne lo sono, e sono stupide se paragonate agli uomini. Non dovrebbero giocare a scacchi. Contro un uomo perdono sempre. Non esiste donna al mondo alla quale potrei dare un cavallo di vantaggio e non vincere ugualmente. Dal punto di vista psicologico, Fischer sembra avere imboccato una via senza ritorno. Le persone che gli erano state in qualche modo vicino in questi anni, chi perché abbagliate dal suo genio, chi per lucrarci sopra qualcosa, cominciano a defilarsi. È il 1970. Bobby, senza avere minimamente i favori del pronostico, si presenta al torneo dei candidati a Palma de Mallorca. Sono una serie di match a eliminazione che decideranno chi dovrà affrontare il campione del mondo. Bobby si presenta stanco, trasandato. Forse sente l'astio che lo circonda, forse è semplicemente nel suo mondo. Si siede di fronte alla scacchiera per il primo incontro, accompagnato dallo scetticismo generale. Fa la prima mossa. Tutto nella sua testa cambia, si fa limpido e chiaro. E inizia a suonare la sinfonia del suo genio. Così lo ricorda John Rinaldo, della delegazione americana. Penetrò dentro i suoi avversari come un coltello caldo nel burro. Fischer inanellò una serie di risultati favorevoli che non è mai stata eguagliata da nessuno dei giocatori più forti nella storia degli scacchi, vincendo tutte le partite negli ultimi 5 turni. Giocò la più lunga serie di vittorie in incontri tra grandi maestri di tutti i tempi, così come la più lunga serie di vittorie individuali. Bobby aveva ottenuto il diritto a sfidare il campione del mondo, l'unica persona che stimava nel mondo degli scacchi e forse in generale sul globo terrestre, Boris Spassky. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo narrando la storia di Boris Spassky e Bobby Fischer, due dei più grandi scacchisti di sempre. È il racconto di una strana amicizia tra un russo mite e tranquillo e un americano sull'orlo della pazzia. È la cronaca della vita di due geni che in piena guerra fredda si affrontarono per il titolo mondiale in quello che da tutti è stato definito il match del secolo. È il 1972 e il pianeta vive e si muove al ritmo dei delicati rapporti tra le due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. La corsa agli armamenti nucleari ha di fatto reso impraticabile una guerra tra loro. Sono due giganti che non possono più affrontarsi sul campo di battaglia, perché la forza bellica di cui dispongono, se usata, porterebbe alla fine del mondo. In questo delicato e nevrotico equilibrio viene spesso usata l'arma della propaganda, con cui le due nazioni cercano di convincere il mondo della giustezza e dello spirito vincente del proprio sistema di vita. Qualsiasi campo di interesse, dalla conquista dello spazio allo sport, può diventare l'occasione per imporre la propria supremazia sull'altro. Per questo il titolo che si contendono Spassky e Fischer diventa molto più di una semplice serie di partite a scacchi. Per i russi, Spassky è il portabandiera di un sistema intellettuale senza eguali. È il simbolo di un gioco che porta dentro di sé i connotati della genialità e dell'istinto, e del ragionamento, e di cui i sovietici sono i dominatori mondiali. I giornalisti Allen Kaufman e Dave Edmonds raccontano il significato che per i russi avrebbe avuto quella sfida tra geni. I russi, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, avevano dominato tutti i campionati mondiali di scacchi. Gli scacchi erano per loro la prova di una superiorità intellettuale nei confronti del capitalismo. Gli scacchi erano diventati uno strumento di propaganda, contribuendo all'idea che il comunismo fosse il miglior sistema di governo e il socialismo producesse gli uomini più intelligenti. Anche gli americani puntano forte sul loro ragazzo prodigio. I giornali parlano di Fischer come di un eroe solitario che va alla guerra contro un'armata intera, sottolineando il fatto che Spassky può allenarsi e prepararsi al match con decine di campioni suoi connazionali. D'incanto scompaiono le critiche nei confronti del carattere impossibile di Bobby e viene costruita intorno a lui un'aurea mediatica pronta a far da trampolino a un'epica impresa. Il suo avvocato, Paul Marshall, ricorda il clima che si respirava in quel momento negli States. Bobby si preparava da solo e questo era grandioso, dava un'idea romantica. Lui da solo contro la grande macchina rossa. È una cosa che catturava l'immaginazione. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hold on, I see another immigrant punk. There is a little punk rock mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Tutto è pronto per la grande sfida. Nel luglio del 1972, Reykjavik, la capitale della pacifica Islanda scelta come territorio neutrale per lo scontro, è in fermento per l'attesa. I russi non si fanno attendere. Da Mosca parte la grande delegazione. L'armata sovietica schiera tutte le sue mostrine e si presenta con il suo eroe, Spassky. Ma dall'altra parte dell'oceano, il suo rivale tarda a presentarsi. Ma non è in ritardo. Non è proprio partito. Anzi, non vuole partire. Tra lo sconcerto della delegazione americana, all'aeroporto di Washington, Fischer fa una clamorosa inversione di marcia e torna nel suo piccolo appartamento a Pasadena. Ha deciso che i soldi della sua borsa non sono sufficienti e finché non verrà rinegoziato il compenso, non accetterà di prendere parte alla sfida. Ma c'è anche un'altra verità molto più inquietante. La racconta Robert Byrne, gran maestro americano. Bobby era terrorizzato dall'idea di viaggiare in aereo, perché aveva l'assoluta convinzione che i russi avrebbero fatto cadere il suo aereo. Ma il gran rifiuto non può essere archiviato come una semplice questione privata. Gli Stati Uniti non possono permettersi di ritirarsi dalla guerra. Il giocatore di scacchi viene raggiunto al telefono dalla voce altamente persuasiva di Kissinger in persona. Il consigliere del presidente Nixon cerca di convincerlo a partire facendo leva sul suo orgoglio personale e sull'amor di patria. Se del secondo aspetto Bobby se ne infischia, al contrario, la possibilità di essere riconosciuto come il più grande giocatore di scacchi al mondo lo induce a rifare le valigie che aveva appena disfatto. Nel frattempo a Reykjavik la macchina cerimoniale è andata avanti, con la delegazione russa al gran completo, i rappresentanti della Federazione Internazionale di Scacchi, centinaia di giornalisti da tutto il mondo, la sedia vuota di Fischer e Spassky. Tutti i riflettori sono puntati sul russo, che inizia a sentire la tensione dell'attesa, dell'incertezza, per un match che ancora non si sa se si giocherà oppure no. I miei nervi cominciavano a cedere, e quando i tuoi nervi cedono ti senti come un'automobile rimasta senza benzina, e non c'è niente che tu possa fare. 10 giorni più tardi della data prevista per l'arrivo, Fischer sbarca a Reykjavik, ma con sé porta un carico di richieste assurde che pone come condizioni per giocare. Don Schultz, delegato della Federazione Americana, le ricorda ancora bene. Fischer chiese che nel suo albergo ci fosse il servizio ristorante 24 ore al giorno. Voleva che gli fosse messo a disposizione qualcuno che giocasse a tennis con lui quando ne aveva voglia e che gli fossero consegnate le chiavi di una pista da bowling, in modo che lui potesse andarci in ogni momento che desiderasse. Finalmente, l'11 luglio del 1972, dopo che l'organizzazione è venuta incontro alle richieste di Bobby, comincia il match del secolo. Si giocheranno 24 partite e chi ne vince di più diventerà campione del mondo. A guardare il primo incontro ci sono una folla di giornalisti e telecamere delle televisioni di tutto il pianeta. Bobby e Boris si siedono alla scacchiera. Fischer è nervoso, si guarda intorno, guarda le telecamere che lo fissano con il loro freddo occhio di vetro, si lamenta, dice che ne sente il rumore meccanico. Non riesce a concentrarsi. Vengono fatte delle prove. È impossibile che Fischer senta qualcosa. Le telecamere sono a una distanza tale che nessun orecchio umano può sentirle. Ma Fischer le sente. E allora, stizzito, si alza e se ne va, di fronte allo sguardo allibito di Spassky. Bobby, per ritiro, perde la prima partita. Fischer, dopo essersi ritirato nel primo incontro, perde anche il secondo. Giocare di fronte a tutta quella gente lo rende nervoso, non riesce a trovare il bandolo della complicatissima matassa che è il suo cervello. Vuole abbandonare tutto, tornare subito negli Stati Uniti. Solo un'altra telefonata di Kissinger lo convince a rimanere. Ma Bobby accetta solo alla condizione che il terzo match si giochi lontano dalle telecamere e dal pubblico. I russi, stufi delle assurde richieste di Fischer, vorrebbero che Spassky non le accettasse. Non è certo obbligato, e in questo caso rimarrebbe campione del mondo. Ma Boris non vuole mantenere il titolo a tavolino. Non sono i titoli e le onorificenze, ma è la gioia di confrontarsi con campioni come Fischer, che lo ha di fatto portato a voler essere un giocatore di scacchi. Avevo due possibilità. Potevo abbandonare il match e rimanere campione del mondo, e questo sarebbe andato assolutamente bene secondo le regole della Federazione Internazionale. Oppure potevo continuare. E questo era quello che sentivo essere giusto, dentro di me. Fischer e Spassky, per il terzo match, finiscono a giocare in una piccola stanza dietro al palco dove avrebbero dovuto svolgersi le partite. È un luogo angusto, c'è un'unica telecamera appesa a una parete, come quelle delle stanze degli interrogatori di polizia. Bobby, di fronte a Boris, è quasi imbarazzato. Gli spiega che non vuole creargli i problemi, è solo che sta cercando le migliori condizioni di pace e isolamento per giocare il match. Boris, come vuole il suo carattere, non riesce a odiare un uomo che palesemente è sempre più preda di paranoie ed è sempre meno in sé. La partita comincia. Bobby si lamenta ancora del rumore della telecamera e insulta l'arbitro che lo invita a giocare. Per Boris non sono certo le condizioni ideali per una partita di scacchi. Avrei potuto dire: signori, a queste condizioni non gioco. Se non torniamo nella sala grande, in un clima civile, io me ne vado. Ma dato che avevo promesso a Bobby che avrei giocato, non lo feci. E giocai quella partita come un coniglio paralizzato dallo sguardo di boa constrictor. Fu la prima volta che persi con Fischer. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he... Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi stiamo raccontando la storia di quello che è stato definito nel mondo degli scacchi il match del secolo. I duellanti sono l'americano Bobby Fischer e il russo Boris Spassky. Non è solo una partita tra due geni, ma è anche una battaglia tra Unione Sovietica e Stati Uniti per dimostrare la propria supremazia in uno dei nobili campi della pura intelligenza. I primi tre incontri del match sono stati drammatici, giocati molto sui nervi e poco sulla scacchiera. Finalmente per la quarta partita e per quelle successive, Bobby viene convinto a giocare nella sala grande in condizioni normali. Finalmente si comincia a giocare davvero a scacchi. E Bobby, partita dopo partita, sembra entrare nella mente dell'avversario. È come se ad ogni loro incontro Fischer impari un po' alla volta a capire in anticipo le mosse che farà Spassky. L'americano, come una marea lenta e inesorabile, prende il sopravvento sul russo, che non riesce a giocare sui suoi consueti ed eccelsi livelli. Boris, uomo pacato e tranquillo, è come se avesse subito psicologicamente la follia, la continua inquietudine dell'avversario. È come se l'avesse assorbita. I russi, sul 10-7 per l'americano, provano a darsi qualche spiegazione dello stato mentale di Spassky, come ci racconta l'allora capo delegazione sovietico. Ricevemmo parecchie lettere anonime in cui si diceva che Fischer stava provando ad influenzare la mente di Spassky, sfruttando alcune fonti di energia che erano installate su un sottomarino al largo di Reykjavik. Un altro sospetto riguardava l'idea che nella sedia di Fischer fosse installato un generatore che, ogni volta che Fischer si alzava dalla sedia, veniva azionato sparando dei raggi direttamente al cervello di Spassky. La sedia su cui gioca Fischer viene smontata pezzo per pezzo e ovviamente l'accusa sovietica si rivela infondata. La verità è che ormai il match ha preso una piega irreversibile e al 20° incontro Bobby vince la partita che lo laurea campione del mondo. Come ricorderà anni dopo Spassky, il match del secolo non è stata soltanto una sfida sulla scacchiera, ma una vera e propria battaglia di nervi. Sono convinto che persi quel match dall'inizio, quando non riuscì più a tenere i nervi sotto controllo. Anche Bobby aveva dei grossi ed evidenti problemi di questo tipo, ma riuscì a dominarli, perché facevano parte della sua natura intrinseca. Io invece in quell'occasione non ci riuscì. Boris perde col sorriso sulle labbra e consegna il suo scettro con la stessa eleganza con cui l'ha conquistato. Nel 76 si trasferisce in Francia, dove vive tuttora. Bobby torna in patria e viene accolto come un eroe. Davanti a un'enorme folla riceve la medaglia al merito del congresso. Gli scacchi sono un grande gioco. Un gioco e uno sport per la mente. Bobby trascorre le prime settimane dopo il match del secolo tra interviste, serate di gala organizzate in suo onore, apparizioni televisive e in show di successo. Ma ben presto l'attenzione nei suoi confronti scema. Tutto torna alla normalità e gli scacchi, che in termini di interesse non sono esattamente il primo sport degli Stati Uniti, riprendono il loro posto nella nicchia dei giochi meno seguiti del paese. Bobby torna a vivere a Pasadena. Poco alla volta smette di partecipare a qualsiasi incontro o torneo, si trincera dietro un assoluto silenzio e chiude i rapporti con il resto del genere umano. Nel 75 rinuncia a difendere il titolo mondiale contro il russo Karpov e perde la corona. Il match con Spassky sarà l'ultima partita ufficiale della sua vita. Nell'82 viene arrestato e tenuto in cella per una notte. È stato scambiato per un barbone mentre girava in stato confusionale per le strade di Pasadena e ha rifiutato di mostrare i documenti al poliziotto che l'aveva fermato. Dopo questo triste episodio si perdono per un po' le sue tracce. Pare che Bobby sia andato a vivere in Ungheria e poi in qualche altro paese dell'Est Europa. Nel 92 Fischer ricompare. ha bisogno di soldi e ha chiesto a Spassky di scontrarsi di nuovo con lui di fronte a una scacchiera. Sa che l'incontro, la rivincita del match del secolo, gli porterà qualche soldo in tasca. Il problema però è che il match è stato organizzato in Jugoslavia. In una conferenza stampa prima dell'incontro, Fischer mostra un documento del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti che gli proibisce di giocare negli Stati balcanici a causa delle sanzioni economiche al momento in vigore. Il giornalista John Keane, presente alla conferenza, ricorda quel momento. Bobby fece qualcosa di davvero sconveniente. Prese in mano il documento di fronte a tutti i media e disse: «Ecco che cosa penso di questo documento», e ci sputò sopra. Per tutta risposta Fischer viene incriminato e viene emesso un mandato di cattura per il suo arresto da parte del governo degli Stati Uniti. Bobby e Boris giocano e Bobby vince di nuovo. È una serie di partite con alcuni lampi di genio, ma nel complesso modeste rispetto a quelle di 20 anni prima. Il clima è disteso, come quello che ci può essere tra due vecchi campioni che si rincontrano dopo tanti anni. Boris cerca anche di convincere Bobby a farsi curare da qualcuno e lo invita in Francia. Bobby rifiuta cortesemente l'aiuto dell'amico e sparisce nuovamente. La sua pazzia è ormai su una strada senza ritorno. Dopo anni di silenzio e di latitanza, Fischer torna a far sentire la sua voce il giorno dopo il crollo delle Torri Gemelle. Chiama una radio filippina e si lancia in uno sproloquio in cui accusa gli ebrei e gli americani di essere il male del mondo, sostenendo che l'attentato di New York è la semplice e giusta conseguenza delle loro azioni. Tutto quello che fai alla fine ti torna indietro, anche se sei gli Stati Uniti d'America. Io voglio vedere gli Stati Uniti spazzati via! Il 13 luglio 2004, Robert James Fischer viene arrestato all'aeroporto Narita di Tokyo dalle autorità nipponiche per conto degli Stati Uniti d'America, ufficialmente per un passaporto irregolare. Viene rinchiuso in un carcere. Un mese dopo, con una telefonata a una radio, Boris Spassky lancia un appello al presidente americano George W. Bush in favore dell'amico. Non voglio difendere o giustificare Bobby Fischer. Lui è fatto così. Vorrei chiederle solo una cosa, la grazia, la clemenza. Ma se per caso non è possibile, vorrei chiedere questo. La prego, signor Presidente, corregga l'errore che ha commesso François Mitterrand nel 92. Bobby ed io ci siamo macchiati dello stesso crimine. Applichi quindi le sanzioni anche contro di me. Mi arresti, mi metta in cella con Bobby Fischer e ci faccia avere una scacchiera. Dopo qualche mese di carcere, Bobby è rilasciato. Gli viene concesso il passaporto islandese e solo in povertà va a finire la sua triste e travagliata esistenza a Reykjavik, proprio nel posto dove ebbe maggior gloria. Il suo eterno amico e rivale Spassky, invece, è ancora vivo. Abita in un paesino della Camarga, dove si dedica al bridge, al giardinaggio e all'amore inestinguibile per gli scacchi, che pratica ancora come passatempo. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.